Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il giovane criminale, Jeannet Sassà, scritto, diretto e interpretato da Salvatore Striano. Io questa sera non sarò l'attore e voi non sarete gli spettatori. Facciamo una prova. Io sarò il detenuto, il delinquente, il criminale e voi sarete gli avvocati, i giudici, i giornalisti, i politici e vediamo se funziona. E giudicatemi solo alla fine. Voi li conoscete i ragazzi che per colpa di genitori disadattati vivono nei centri educativi? Nelle carceri minorili, che devono portare avanti una vita da criminali senza averla scelta. No che non li conoscete, magari li avete ascoltati nei titoli dei telegiornali, alla radio, o ancora meglio, li avete spiati dal PC, dal telefonino, da tutti questi aggeggi dai quali vi illudete di conoscere fatti e persone. E infatti è solo un'illusione. Però se voi mi promettete di stare buoni, seduti ed ascoltarmi, io proverò a svelarvi i misteri delle carceri e la loro malavita. Avevo circa 10 anni. Ero col mio amico di sventura, eravamo fermi sul ciglio di un marciapiede. Il semaforo era arancione. Avevamo paura, ma anche tanto coraggio. E credetemi, le due cose non sono in contraddizione. A Napoli ci chiamavano scugnizzi, perché sfuggivamo alla scuola e alle nostre famiglie e ovviamente a tutte le regole del cazzo che avete creato. Sia i soldi che il cibo ce li procuravamo per strada, come si dice a Napoli a miezza via. Vivevamo di gente distratta, la signora con la borsa aperta, il signore che per andare a comprare il giornale si dimenticava di richiudere la portiera della macchina e noi gli fottavamo lo stereo. I miei occhi erano delle piccole telecamere che scrutavano tutto alla ricerca delle mille occasioni che la strada ci offriva. Quel giorno io e il mio amico eravamo per strada e il semaforo ha cambiato di colore e il mio cuore batteva così forte che mi sembrava scoppiare. Poi è diventato rosso il semaforo. Le macchine si sono fermate tutte di colpo. Io e il mio amico abbiamo attraversato quell'ultimo pezzo di strada che ci separava dal nostro primo furto. Prima di entrare nel negozio, ci siamo dati un ultimo sguardo d'intesa per trovare il coraggio e scacciare via la paura. Appena siamo entrati dentro, i clienti del negozio sono scappati tutti quanti via. Manco fossimo un gruppo di camorristi armati. Le mie mani finalmente hanno toccato l'area furtiva. Infilavo cosmetici nelle tasche come fossero caramelle, incurante del pericolo che da lì a poco ci avrebbe fatto suo ostaggio. Una mano gigante è planata sulla mia testa. Ho sentito immediatamente un dolore acuto. Con l'altra teneva stretto il braccio del mio amico. Siamo stati trascinati via con violenza e sbattuti nello sgabuzzino di quel grande magazzino. Eravamo io, il mio amico, la guardia è la nostra paura. E quella è stata la mia prima ora di galera. Sì, perché anche essere rinchiusi in uno sgabuzzino con una guardia che ti tiene lì con forza può prendere le sembianze di una prigione. L'energumeno ci ha fatto svuotare tutte le tasche recuperando tutta la ferro refurtiva. Poi ha preso uno spillone e prima gli ha gridato in faccia al mio amico: tu ti farai una vita di galera, ma rivuolo che non sei altro. E poi, puff, gli ha infilato lo spillone nel palmo della mano. Le sue grida di dolore mi hanno paralizzato. Finché lo stesso spillone, ormai sporco di sangue, non ha iniziato a trafiggere anche la mia mano. Quella era una guardia e noi eravamo i delinquenti. Ma chi, secondo voi, in quello sgabuzzino ha commesso il vero crimine? Noi ragazzini, che a 10 anni invece di andare a scuola andavamo a rubare cosmetici per rivenderli alle prostitute nei nostri vicoli. o la guardia? Lo so che mo state pensando alla guardia, vero? E invece no. Noi avevamo la passione per andare a rubare nei grandi magazzini. Non ci potevamo aspettare certo l'applauso. Una volta che la guardia ci ha beccato con le mani nel sacco, non ci poteva fare l'applauso o ci dava una pacca sulla spalla. Insomma, noi ce la siamo cercata. E comunque quando siamo usciti da quel negozio, io e l'amico mio, ci siamo promessi che se volevamo continuare la nostra attività di ladri, dovevamo essere più determinati, proprio come era stato l'orco con noi. Il giovane delinquente che inizia a 7-8 anni e che pensa che la società fa schifo, che la legge fa schifo e le guardie fanno schifo, che si ribella alla regola, beh, quel guaglione, l'indulgenza, il perdono, il recupero, già li rifiuta. E quando arriva a 15 o 16 anni possiede un'esperienza e una maturità tale e una persona per bene non avrà nemmeno a 60 anni e disprezza la loro bontà organizzata come la disprezzate voi, ma la dovete praticare per forza. Comunque le nostre facce per tutti i vicoli e le strade della città erano troppo sputtanate, ci riconoscevano in tutti i negozi. Entrarci per rubare per noi era diventata veramente un'impresa impossibile. Ma eravamo ragazzi di strada. Non ci voleva certo un dottorato per inventarci una nuova attività che ovviamente fosse illegale. In quel periodo Napoli era piena di militari americani, bianchi, neri e pure rossi. Avevano tutti quanti la testa rasata e i muscoli in bella mostra. Così dopo una riunione tra noi scugnizzi abbiamo deciso che la nostra nuova attività doveva essere quella di accompagnare i militari americani dalle prostitute dei nostri vicoli. Per noi non faceva nessuna differenza se le prostitute avessero il cazzo o la figa. Erano delle amiche puttane, ci dicevano che vendevano il proprio corpo per una manciata di dollari. E che cazzo vuol dire vendere il proprio corpo, ci domandavamo noi. E intanto, pure se eravamo piccoli, ogni tanto un pompino ce lo facevano pure a noi, ovviamente per risparmiare sui soldi che gli dovevamo dare, $5 per americano. Ci sentivamo padroni di tutto, non ci faceva paura più niente, nemmeno la notte, quando trasformava i nostri vicoli in una vera giungla. Noi, spalleggiati da quei marines americani, ci sentivamo al sicuro. I nostri nonni ci dicevano: gli americani ci hanno salvato dai tedeschi. Sono arrivati gli americani, sono arrivati gli americani, gridavano. Anche se a dire la verità, noi a questi americani li abbiamo sempre visti tutti ubriachi. Però erano buoni, erano simpatici, erano generosi. Noi gli procuravamo prostitute, trans e droga, in particolare hashish. Anche se a dirla tutta, ogni tanto gli vendevamo le calamite che si trovano dentro ai frigoriferi. Ce l'avete presente, quelle che servono per la chiusura? Sono uguali a delle stecchette di fumo. E così loro ci davano dollari, dollari e ancora dollari. Li fregavamo sempre. Avvolgiavamo le calamite nella carta stagnola. Poi gliene facevamo vedere solo un pezzetto. Quelli si pensavano che era hashish e ci davano i dollari. Appena prendevamo i soldi gli consegnavamo le finte stecchette di fumo e poi creavamo un allarme per non farci sgamare della truffa. Police, police, gridavamo e quelli scappavano per i vicoli dei quartieri spagnoli fino ad arrivare a Via Toledo con la coda tra le gambe. E che risate! E quando la gente del quartiere ci diceva: voi non dovete portare più gli americani sui vicoli, noi rispondevamo: facetevi i cazzi vostri, gli americani sono buoni, ci fanno guadagnare. Finché un giorno non siamo stati testimoni della cattiveria degli uomini che non ti aspetti. Volete sapere che cosa hanno fatto gli americani a Nanninella? Nanninella era una donna di 53 anni, nei quartieri spagnoli. La chiamavano la signorina, perché era vergine, non aveva mai scopato. 53 anni Nanninella, ed era pure bella. che la gente del quartiere si chiedeva: ma perché Nanninella non trova marito? Qualcuno diceva che era lesbica, ma noi ragazzini non capivamo che significasse lesbica. E qualche volta che abbiamo chiesto a qualcuno più grande: ma che vuol dire lesbica? Ci ridevano in faccia e non ci rispondevano. Comunque un pomeriggio abbiamo sentito delle urla così forte che siamo corsi fuori alla casa di Nanninella. Nanninella viveva in un basso, rinduovasce, come dicono a Napoli. Appena siamo arrivati fuori casa sua, abbiamo sentito una finestra rompersi. I pezzi di vetro ci sono arrivati fino al volto. Abbiamo fatto due passi indietro e abbiamo visto sbucare un uomo. Sembrava King Kong. Aveva appena violentato Nanninella. E Nanninella si è dovuta subire due traumi. Il primo, la violenza dell'americano. E il secondo, lo sfottò di tutto il quartiere. Hai capito, Nanninella, la zitella, la signorina vergine vergine, si è trovato l'americano. E se l'è trovato pure nero. Comunque noi scugnizzi da quel giorno non abbiamo più voluto frequentare i militari americani. Ma non perché ci facevano paura, perché ci facevano schifo. Così siamo stati una decina di giorni in giro per il quartiere. Dovevamo capire quale nuova attività ci potesse intrigare, insomma affascinare. Avevamo bisogno di trovare un mestiere che ci togliesse da quella noiosissima disoccupazione. Così ci siamo inventati il contrabbando di sigarette. Napoli era piena di bancarelle. Erano circa 50.000 le famiglie che campavano col contrabbando. E noi, per stare davanti agli altri, ci siamo inventati di andarle a comprare direttamente alla fonte, a Santa Lucia, dove arrivavano i motoscafi carichi di casse di sigarette. I contrabbandieri ci vedevano piccoli e coraggiosi e si intenerivano, forse perché si rivedevano pure loro quando erano piccoli e scugnizzi come noi. Così noi riuscivamo a prendere le sigarette al miglior prezzo del mercato. Poi prendevamo due casse della frutta e le rivestivamo con i cartoni di sigarette vuoti e li piazzavamo agli angoli delle strade, vicino ai semafori. Sì, proprio vicino a quei semafori che noi utilizzavamo quando andavamo a rubare nei grandi magazzini. E poi dovevamo dare la voce, dovevamo gridare forte io e l'amico mio, perché la gente se ne stava nelle macchine tutte chiuse dentro, con gli stereo acceso. Malboro, Merit, Multifilter, e messa, accattatevi a sigaretta, tre pacchette, Ruminalina, fumata, fumata, Carimana, morita. Era il 1982, c'erano i mondiali di calcio. E la gente era felice, sì, perché quando gioca l'Italia sembriamo tutti quanti una sola famiglia. Dalle macchine che si fermavano a comprare le sigarette uscivano fazzoletti e bandiere tricolori. Credetemi, le macchine si bloccavano, la voce mia e quella del mio amico sembravano una melodia. Poi abbiamo preso più coraggio quando si sono fermati a prendere le sigarette polizia, carabinieri e finanza, ovviamente senza pagare. E in cambio lasciavano che noi ci perdessimo nei pericoli che solo la notte puoi riservare a dei ragazzini come noi. Quindi fino a mo' ho detto che la guardia giurata, invece di accompagnarci a casa, ci infilava gli aghi nelle mani. Che i militari americani prima ci salvano dalla guerra dei tedeschi e poi violentano le nostre donne. E infine carabinieri, polizia e finanza, che per qualche pacchetto di sigarette gratis ci lasciavano abbandonati al nostro destino. Ma a noi queste cose ci facevano bene. Sì, eravamo nemici con la guardia giurata, i marinzi, i carabinieri, la finanza, la polizia, ma noi grazie a loro avevamo con chi sfidarci. Ora mi dispiace, lo so che per voi sono quelli che vi salvano tutti i giorni. Sono quelli che voi amate e rispettate. Sono quelli che per i giornalisti combattono il crimine. La volete sapere la mia? La maggior parte delle volte l'operato di quelle persone è privo di amore. Non c'è giustizia. Trattano la materia umana per un solo scopo: il potere. quel potere che gli vedete dalle medaglie che hanno appeso sulle divise. Quando commetti un crimine, non ti chiedono mai perché lo hai commesso. A loro interessa sapere solo quello che tu hai fatto. Così possono fare la conta degli anni che ti devono infliggere. Invece bisognerebbe avere delle attenuanti per le persone che commettono i reati per disperazione, per coloro che non hanno niente da perdere, perché niente gli avete dato. Ma i giovani criminali se le fottono, è proprio grazie ai crimini che hanno commesso che si sentono qualcuno e che vengono finalmente riconosciuti. Invece al contrario, voi dovreste avere il pugno duro con chi non ha nessuna necessità di delinquere. E invece con loro, con i più potenti, siete sempre clementi. Al massimo, se gli va male, gli date gli arresti domiciliari dopo qualche mese di carcere, ammesso che se lo fanno. Invece con gli ultimi, con gli emarginati, vi siete inventati addirittura la custodia cautelare in carcere, che detta in parole povere vuol dire: prima ti metto in galera e poi vediamo se sei colpevole. E questa me la chiamate giustizia, signori miei? Non vi sembra che a questo mondo più hai e meno paghi, più sei potente e meno sarai perseguitato? La volete sapere una cosa? Io penso che voi della vita non avete capito proprio niente. Ma secondo voi, ma chi lo impoverisce questo paese con l'evasione delle tasse? I benestanti o i nullatenenti? I benestanti, no. I nullatenenti al massimo possono evadere dal carcere. Sono i ricchi che creano emarginazione, disoccupazione e miseria. È da queste disgraziate realtà che fioriscono centinaia di migliaia di giovani criminali. Voi cittadini vi dovreste condannare moralmente a quei soggetti, invece li appoggiate politicamente, vi leggete i loro giornali, assistete alle loro performance sportive. Ma scusate, ma quei soggetti non dovrebbero essere i veri modelli per i nostri giovani? E invece vi sapete applicare soltanto sugli ultimi, sugli emarginati. Ma voi lo sapete quando si fanno le retate? Sì, nel mese di novembre, un mese prima di Natale. E hanno pure una certa fantasia. Gli danno un nome a queste operazioni: Natale sereno, Natale tranquillo, Natale dentro. E poi a luglio. Luglio è il mese peggiore per i ladri di appartamento. E certo, la gente deve andare in vacanza. E mica la polizia può controllare tutti gli appartamenti vuoti. Si va prima a mettere a quei quattro scappati di casa in galera. Poi finita l'estate li fanno uscire, quando quelli non hanno fatto niente. Come vi dicevo prima, sono le vittime della custodia cautelare in carcere. Prima ti metto in galera e poi vedo se sei colpevole. E questa non è giustizia. Vabbè, direte che sto provocando, ma pure voi provocate. Vi riempite la bocca di modi di dire come la potenza del male, il potere oscuro, il lato oscuro della forza, sì, guerre stellari, per sapere cos'è questa parte misteriosa degli uomini, che è pericolosa esplorare. Bisogna entrarci dentro armati delle parole e delle definizioni giuste, perché sennò non si capisce niente. Qua siamo tutti quanti bravi se dobbiamo partire per un'azione votata a fare del bene. Già sappiamo dove andare e quello che dobbiamo fare. E magari ci aspettiamo pure l'applauso. Invece quando si intraprende la strada del male, non sappiamo nemmeno di quello che stiamo parlando. Io so solamente che conosco delle persone che quando sentono una parola un male, gli viene come una specie di carica, una specie di entusiasmo. E se l'anima vostra è piccola, signori, signore e signorine, se l'anima vostra è picciorella, allora il momento del crimine commesso da un ragazzo, chiamatelo pure incoscienza. Io gli do un altro nome: perché ci vuole una bella faccia tosta di un attore per sfidare le regole, le istituzioni, le leggi. Voi ne sareste capaci. Ciò che ci porta al crimine è il sentimento di un'esistenza pericolosa. È il sentimento del romanzesco per coloro che non sanno nemmeno cosa sia un romanzo, perché non hanno le parole per descriverlo, ma sanno che vogliono vivere una vita diversa, altrove. Dove? E che cazzo ne sono? Lo sanno nemmeno loro. Ma sicuramente lontano da voi e dalle vostre case. E mi domando se voi non li perseguitate anche per dispetto, perché vi disprezzano, vi ignorano. Comunque, tra le mie attività, mi ero inventata quella di andare a portare il giornale appena uscito di notte ai boss del mio quartiere. Me lo pagavano anche 20-30 volte di più. Un giornale che costava 1.000 lire, me lo pagavano dalle 20 alle 30.000 lire. E voi direte, perché non se l'andavano a comprare loro? E ve lo dico io perché. Quelli non mettono la testa fuori alla porta di casa per paura di essere ammazzati o arrestati. Ecco che cosa sono i boss. Si atteggiano come padroni, ma non possono portare nemmeno fuori il cane a pisciare. I boss hanno i Rolex per aspettare l'ora della morte che decreterà il loro nemico. Hanno le case più belle della città, ma devono vivere nei cunicoli, murati vivi. Ecco cosa sono i boss. A me, sinceramente, all'inizio quando li vedevo mi facevano pure un poco paura. Ma poi dopo, quando ci parlavo, prima che gli consegnavo il giornale, mi facevano pena, perché li vedevo che avevano una vita tra la tomba e la galera. Comunque una sera, mentre stavo portando il giornale a un boss, proprio quando sono arrivato sotto casa sua, l'ho visto che stava sotto al palazzo piegato in due dal dolore, che gridava: aiuto, ma fai presto, aiuto, ma non ce la faccio più, mi sento male, accompagnami al pronto soccorso, fammi salire sulla Vespa. Me lo sono caricato come un incosciente sulla Vespa e sono corso, spedito al pronto soccorso. Mentre guidavo, mi sentivo come quegli uomini che guidano le moto dei boss dopo aver commesso un crimine. Mentre sfrecciavo per i vicoli, avevo addosso, oltre al boss, tutte le paure. Quella di essere uccisa insieme a lui dai suoi nemici. E credetemi, i boss di nemici ne hanno tanti. Soprattutto quelli che dicono di essere amici. Oppure quella di andare a sbattere con la Vespa perché correvamo davvero tanto. O di essere riconosciuto insieme a lui e scambiato per un suo affiliato, giocandomi per sempre la mia libertà. Comunque, quando siamo arrivati al pronto soccorso, i poliziotti del drappello di polizia ci hanno bloccato immediatamente, perché lo hanno riconosciuto che era il boss. Così l'hanno preso e l'hanno accompagnato al primo piano dove c'erano i medici. Io sono rimasto in mano a due guardie che mi schiaffeggiavano senza darmi nessuna spiegazione. E certo, è che mi potevo aspettare. Mico ero un boss pure io. Comunque l'ho visto scendere dopo circa mezz'ora, senza più dolori, ma con le manette ai polsi. Si è seduto vicino a me e con un gesto fulmineo, senza farsi vedere dalle guardie, come solo i criminali sanno fare, mi ha ordinato di dire che quella bustina di cocaina era mia. Me l'ha detto con una faccia così arrogante che mi è suonato come un imperativo più che una richiesta, da non darmi nemmeno il tempo di rispondere. Solo in quel momento ho capito perché le guardie mi avevano picchiato. Quando eravamo arrivati fuori al pronto soccorso, il boss, alla vista degli agenti, aveva buttato la bustina di cocaina che le guardie avevano trovato. E dopo avermi dato l'ordine, ha iniziato ad infierire contro di me, dando vita alla sua sceneggiata. Diglielo, fai presto, diglielo che non ho fatto niente, diglielo che stavo male, stavo piegato in due dal dolore, diglielo, diglielo che ti ho chiesto solo un passaggio per arrivare all'ospedale. E quando finalmente la guardia mi ha fatto la fatidica domanda: hai buttato qualcosa a terra quando ci hai visti? Mi aveva fatto un assist che mi avrebbe portato direttamente in galera. Sì, ho detto io. Ho buttato una bustina di cocaina. E cosa mai avrei potuto dire? Sì, era un ragazzo coraggioso, ma non al punto di disobbedire all'ordine di un boss. Quello mi avrebbe ammazzato. Comunque in quel momento ho visto sia le facce delle guardie che quella del boss assumere la stessa espressione. Erano tutti quanti felici di aver trovato un colpevole, che ero io. E qui è difficile, signori miei, chiedervi chi è il cattivo del film, se il boss o le guardie. Eppure qua devo essere sincero, non c'è nessun cattivo, ma semplicemente un giovane incosciente ammaliato dal fascino dei criminali. Così mi sono trovato direttamente al centro di accoglienza dei Collaminei di Napoli. Pensavo di aver messo da parte tutte le paure. Quella di essere ucciso sulla moto col boss, quella delle manette ai polsi, quella della condanna. E invece eccone altre. Era sera. E c'era una sola guardia. Mi ha fatto spogliare per ben 4 volte. E io non capivo. Incominciavo a chiedermi se alla guardia gli piacesse il mio cazzo o il mio culo. E poiché non avevo nessuna intenzione né di dargli il cazzo né il culo, perché sinceramente a me mi avevano toccato soltanto le prostitute del mio quartiere, allora ho deciso di mettere fine a quella situazione, dando delle testate sul tavolo, fino a spaccarmi il mento. E solo la mia faccia piena di sangue ha fermato quel pervertito. Riformatori e carcere sono parole che indicano un luogo ideale e crudele e hanno un posto importante nel cuore di un giovane criminale dei quartieri spagnoli di Napoli come lo ero io. Signori miei, noi da Guaglioni riconosciamo il richiamo del carcere. Entrare e uscire per noi è un movimento naturale, fa parte della vita, come bere, mangiare, fottere. Il carcere è un angolo di mondo che ha il suo riflesso dentro l'anima nostra di giovani delinquenti. Nisida, Poggioreale, Santa Maria Capovetere, Re Bibbia, sono nomi che forse per voi non significano nulla o che avete ascoltato nei titoli dei telegiornali. Ma nella testa del guaglione che ha appena commesso un crimine, quei nomi sono la proiezione definitiva del destino. Comunque mi hanno confermato l'arresto per quei 3 grammi di cocaina di cui mi ero incolpato al posto del boss e mi sono trovato direttamente nel carcere minorile di Nisida, a Napoli. Quando andavo a rubare, il carcere minorile di Nisida, nella mia testa me lo sono sempre immaginato come una scatola cinese, un'isola con dentro un carcere e dentro al carcere tanti piccoli criminali. Nisida era uno dei posti più prestigiosi per noi altri. La camera di punizione era tutta dipinta di nero, compreso il soffitto. E dopo le risse e le coltellate per stabilire chi era il più forte tra noi, c'erano i gavettoni d'acqua gelata, la cella punitiva. In altre carceri correva voce che c'era la tomba vuota, il supplizio del pozzo, il gioco delle dinozze, la stanza delle botte, la cella buia. Nascono senza paura perché la creatura c'è pire e fuma. Passano muri in petto e sapendo nei tram con facilità. E sta a ritirare una casa soltanto se odiamo e più scuro si fa. Non ducevo rima rimane chi scende per prima se me nascita. Crescono senza paura perché inizia vita e arrancia per campà. Figli una strada sbagliata perché una fatica nessuno ci sarà. Non si abbandonano mai e sicuri in disgrazia se vanno a trovare. Carmine è stato arrestato con rima da mamma e a non ce l'ha avvisà. Sono più guaglione e mia zavia che ha destino ad affrontare. Mi darà vita in una stanza. se non si fanno ribellare, stanno lontane da famiglia, non si volessero sposare, perché già sanno da vivere la stessa strada a via, e sanno che a me, se mi guardano i miei amici, ma non si fanno giudicare, perché conosco veramente chi lo sue medie la città. Guarda lontano di niente paura, ma non può sapere che se ti serve una mano non tiene un amico, nessuno ci sta. Che il che tiene le nare si è tena stipato, ma quando ti dà solo chi è stato spugnizzo una parte del cuore se le vetterà. Sono che voglio le mie amiche da per destino hanno affrontato vita rapida in una stanza e non si fanno ribellare, stanno montando la famiglia, non si volessero perché già sanno che per figli la stessa strada la piglia e sanno che amma sempre guardano i miei amici, ma non si fanno giudicare perché conosco veramente chi le sue medie la città. State pensando che la società fa il suo mestiere, che cerca di rendere inoffensivi i cattivi soggetti che la corrompono sin da piccoli, spaventandoli con gli educatori, gli assistenti sociali, con i centri d'accoglienza, mandandoli a scuola spesso in mano a dei pessimi insegnanti. Ma la verità, signori miei, è un'altra, è che si sta cercando di ridurre la distanza morale tra la colpa e il castigo. È evidente che questa cosa a me non mi piace, non mi convince per niente. Anzi, mi fa proprio schifo, perché anche se la galera è simile a un collegio o a una scuola per apprendisti, i giovani detenuti non si dimenticano perché si trovano lì, in quel luogo, in quel preciso istante. È il male, è questa ragione tenuta nascosta, sta nelle intenzioni di ogni ragazzo. Non eravamo soli a Nisida, c'erano le guardie, gli educatori, i volontari con quelle neosissime caramelle, ne portano sempre tre, al limone, a menta e arancio. E ogni volta che ci chiamano, tutti quanti noi detenuti, diciamo la stessa cosa. Ma non basta con danni, ci dobbiamo sopportare pure a questi, mo, che con la scusa del volontariato vengono qui dentro a farsi fare compagnia da noi perché fuori nessuno se ne fila. Però erano bravi, erano gentili. E per fortuna che poi c'era l'educatrice, Stefania. E chi se la dimentica Stefania? Stefania ci portava sempre in giro sull'isola, sempre a due. E quando poi trovava un posto un poco più appartato, più tranquillo, tirava fuori un pacchetto di sigarette e ci faceva fumare un bello spinello. E quando ci vedeva che eravamo belli fatti e sballati, entrava in azione. All'educatrice gli piaceva farci le seghe, aveva la passione. A volte ce le faceva pure a due in contemporanea, eh? Con gli occhi guardava se arrivavano le guardie e con le mani, e che mani, ci teneva là coi cazzi duri e la mente libera. E poi all'ultimo ci diceva: "Guaiù, anche se state in galera, io vi faccio godere." E perché lei non godeva, aveva una faccia quando ci metteva là. Io sono nato il 9 settembre del 1972. Il 17 dello stesso mese ho fatto finalmente il salto di qualità. Mi hanno sbattuto dentro per porto e detenzione abusivo d'arma da fuoco. Appena compiuti 18 anni ho fatto finalmente il mio ingresso nel carcere di Poggioreale. Ho conosciuto il temuto carcere di Poggioreale. Ne avete sentito parlare, no, della violenza del carcere di Poggioreale? Non vi dice niente la cella zero, dove ci entrano detenuti sani e riescono rotti, feriti e qualche volta pure morti. All'interno del carcere le guardie lo sanno, non lo sanno, gli educatori lo sanno, non lo sanno, ma chi se ne frega? In galera è come stare nei gironi dell'inferno di Dante. I gironi possono essere la cella dove ti trovi a scontare la condanna con altri detenuti, ma anche il passeggio, dove ti mandano a sgranchire le gambe, in quel perimetro delimitato da alte mura e fili spinati. E mentre giri a vuoto tra quelle mura, ti scambi il veleno con un altro detenuto. Tu mi vuoi raccontare come fai le rapine? Dai, nei dettagli, mi devi dire tutti i particolari però. E tu? Tu mi dici come fai i furti d'appartamento? Come entri nelle case della gente? Ma soprattutto, una volta dentro, dove cerchi per trovare i soldi, i gioielli? Eh? Io? E io vi posso raccontare come si tratta la droga, come si spaccia la droga, dove si compra, dove si vende, soprattutto a che prezzo si vende e a chi la devi vendere. E ve lo dico io a chi. A tutte le categorie, ai manager, gli imprenditori, gli avvocati, i politici. Credetemi, se c'è una polvere che non spazzerete mai via, quella polvere si chiama cocaina. I gironi dell'inferno del carcere di Poggioreale hanno tutti quanti un nome. Padiglione Napoli, Padiglione Venezia, Padiglione Roma, Padiglione Torino. Finisci per prenderti un dottorato in criminologia. Diventi esperto di tutti i reati. Il carcere è stata la palestra più dura della mia vita, soprattutto quando mi dovevo difendere. Le galere sono piene di camorristi, di prepotenti. E per me, i camorristi, li ho sempre visti come i papponi che campano sulle spalle delle prostitute. I camorristi campano sulle spalle dei ladri, e gli ambulanti, dei contrabbandieri, insomma, della gente che campa in mia zavice. Ti puntano una pistola in faccia e ti ordinano di fare tutto quello che ti dicono. E se tu devi pagare il pizzo, tu lo paghi. E se tu devi restituire la refurtiva che hai rubato, tu la restituisci. Perché se no la pena minima è la gambizzazione. Sì, ti sparano, ti azzoppano. Per questo che io avevo una pistola, per difendermi. Perché quando i camorristi del mio quartiere venivano da me e mi ordinavano di restituire la refurtiva, io gli dicevo: se tu vuoi i Rolex che io ho rubato, alza il culo e vatteli a rubare se tieni il coraggio. E così me li facevo nemici, diventando un loro bersaglio. In galera non è come fuori, credetemi. Tu fuori, se vuoi, te li puoi evitare. In galera sei chiuso dentro e allora li devi affrontare per forza. Lì nelle sezioni delle carceri ci sono detenuti, gruppe, bande che stanno insieme con la colla dell'amicizia, della sfida, dell'inganno, dell'arroganza, della pigrizia, dell'amore. Sì, sentitemi bene, dell'amore per la pigrizia e per l'avventura contro le regole. Ma attenzione, io questa crudeltà non la imputo ai direttori, alle guardie, agli educatori. No, essi erano testimoni feroci, sì, ma testimoni, ben coscienti di recitare un ruolo, il ruolo degli avversari. Le crudeltà del regime carcerario nascevano e crescevano dalla passione dei ragazzi per il male. Sì, il male. E con mio giardino ero bene e do male, ma senza bene. A parte che la differenza tra un bene e un male si vede solo a cose fatte, quando tutto è fornuto. Ma io dico, se tu forzi la porta per entrare nel giardino proibito, tu vuoi che dall'altra parte ci sia qualcosa per cui ne valga veramente la pena. Il giardino deve essere feroce. Io il carcere, prima di conoscerlo da detenuto, l'ho conosciuto da visitatore. Mia mamma mi portava con lei quando andavo a fare colloqui a suo fratello. Una volta, mentre eravamo a colloquio, ho sentito che parlavano lei e il fratello con voce preoccupata. Parlavano di un detenuto, uno che si chiamava Sarracino. Lo chiamavano così perché aveva gli occhi neri neri che faceva impazzire tutte le donne. Sarracino faceva l'elettricista nel carcere di Poggioreale. Era un uomo di Cutolo. E quando doveva ammazzare un suo nemico, mandava un bigliettino nella cella e ordinava di fulminare una lampadina. Così arrivava lui, riaccendeva la luce e spegneva una vita, quella del nemico di turno. Mio zio raccontava che Sarracino ti metteva un cuscino sulla faccia e ti infilava una lama nel corpo. E tutta la gente che era in cella restava lì paralizzata a guardare. Ovviamente senza muoversi. E lui con quegli occhi neri neri osservava tutto quello che succedeva in cella. Mio zio diceva che quella cosa gli poteva succedere anche a lui. Ecco quello che io sentivo quando andavo a colloquio con mia madre da mio zio. Per questo, una volta prima di entrare al carcere, mia madre mi ha infilato una piccola pistola nel gesso che avvolgeva la mia gamba rotta. Era il periodo dei cutuliani e in carcere si moriva con una certa frequenza. Per questo io quel giorno mi sono sentito un piccolo eroe, perché quella pistola sarebbe servita a mio zio per difendersi, per salvarsi la vita. Durante quel colloquio sono venuto a sapere che addirittura io sono stato in galera nel 1971, che non era ancora nato, perché come vi ho detto prima, io sono nato nel 1972, ma mia madre era incinta di me, così insieme abbiamo varcato l'ingresso del carcere di Poggioreale. Quella pazza non aveva tanti soldi e per non rimanere al freddo con mia sorella e mio fratello maggiore rubava l'elettricità dalla strada. Erano circa 50 le detenute che stavano lì per lo stesso reato. E quando gli ho chiesto, mamma, ma veramente io ero in carcere con te quando ero nella tua pancia? Lei mi ha accarezzato la testa e mi ha detto, sì, mamma, ma tu sei ancora più disgraziato, perché sei nato malnutrito, prematuro. Tu non sei nato come tutti i bambini, sei nato settimino. Quindi quando sei nato non ti hanno messo nel nido, ma ti hanno messo in un'incubatrice. E mio zio ha risposto, e quella è come una galera, nipote mio. Io non capivo quello che mi dicevano, ma in quel momento mi sono sentito importante, perché io ancora dovevo nascere e già ero un uomo di galera. Ma adesso sono un uomo maturo e ogni segno che porto sul viso c'ha una sua storia dietro. Ero poco più che un ventenne quando sono stato prelevato da un gruppo di carabinieri. Mi hanno messo le manette davanti per permettermi di fumare. Era un chiaro segno che non ero in arresto, se no me l'avrebbero messa dietro. Ero a casa di mia zia e questa cosa li ha fatto insospettire circa la mia responsabilità in un fatto criminoso. Quando siamo arrivati in ascensore, hanno incominciato a ammazziarmi di brutto. Mi riempivano di mazzate e mi chiedevano perché mi ero nascosto. Io gli dicevo, guardate che non mi sono nascosto, questa è casa di mia zia. Sono venuto a mangiare, non ho fatto niente, che volete da me? Ma loro hanno continuato per tutto il tragitto che mi divideva dalla casa alla caserma. Quando sono arrivato là, mi sono accorto che non ero l'unico ad essere mazziato, c'erano pure gli amici miei. Il comandante della caserma era convinto che noi fossimo responsabili di un omicidio che non avevamo commesso e ci ha voluto interrogare ad uno. Io sono stato il terzo ad entrare nella sua stanza e gli altri due che sono entrati prima di me e sono usciti avevano le facce gonfie e pieni di lividi. Finalmente dopo qualche ora ha detto ve ne potete andare, però prima di andarvene vi voglio dire una cosa. Voi sarete ammazzati tutti, tempo una settimana, un mese e la camorra vi ucciderà tutti quanti. Perché voi avete osato disobbedire agli ordini della camorra e io non potrò fare altro che venirvi a mettere un lenzuolo bianco addosso. Siamo rimasti tutti quanti in silenzio, tranne un amico mio, che con una risata che non so nemmeno io da dove gli sia uscita, ha detto al carabiniere, comandà, e allora dobbiamo essere contenti, siamo fortunati, perché oggi ci è mancato poco che ci ammazzaste voi. Spesso i camerristi, alcuni uomini in divisa, non si fanno scrupoli per raggiungere un loro scopo, che sia una mazzetta, che sia una confessione, usano tutta la loro violenza. E femmina morna per noi, e femmina godano con noi, svenano loro sai per noi, non vengono ancora mai per noi, e femmina sciogliamano a noi, e femmina chiagnano per noi, aspettano, si sbattono, per stanno ora con noi. E se passa, si scareta, scarpa di squareta. E se pensa e frisco vera, sente sola di scareppo. Male panza, stenga pista, guarda annanza, Gesù Cristo. Se fatta la bocca, materialista, croce aurora, diamante a vista. Si strada sunga a casa mia, esco appena trasa. So sempre mesa a vita, pure si stunga a casa. A vita fa morire, perché sto fammi ridere. Riga troppi bugie, potesse fu politica. Se mi chi la casa fanno uscire, loro sanno. Se mi chi la casa fanno uscire, per i compagni. Se mi chi la casa fanno uscire, per chi comanda. Se mi chi la casa, se mi guadagno mi salì. Via scuola è solo una bugia. Via casa solo per dormire, stammi sempre mezza via. Se mi guadagno mezza via. Quando guadagno mezza via. Ma queste cose io credo che voi le sappiate. Queste cose non succedono solo a Sasà. I giornali mostrano fotografie di vittime tutti i giorni. Uomini, donne, bambini che prendono fuoco nel deserto per rubare un poco di petrolio dalle tubature. Sono i nuovi forni crematori. Prigionieri incappucciati, carcerieri coi cani e i manganelli. Guantanamo, Abu Ghraib, e non le nostre carceri. Qualche aguzzino ci sarà, qualche vittima ci sarà. Ve la siete dimenticati la scuola Diaz? Vi siete dimenticati quello che hanno combinato gli uomini in divisa nella scuola Diaz? Ma non importa sapere se gli uni sono colpevoli e gli altri innocenti dinanzi a una giustizia superiore. Agli occhi degli israeliani, i palestinesi sono tutti colpevoli, non solo i terroristi di Hamas. E se i cattivi, i crudeli rappresentano la forza contro la quale voi lottate, allora noi vogliamo essere quella forza. Saremo la materia che resiste, senza la quale non ci sarebbero artisti. Io sono ignorante. Sì, ma in galera ho studiato, Ho visto la scuola, la letteratura, le belle arti, il teatro. Io ho scoperto che i libri, senza il crimine, sarebbero tutti fogli bianchi. I quadri, delle tele bianche, i palcoscenici vuoti, gli schermi del cinema vuoti. Ho scoperto che gli scrittori cantano la gloria dei criminali, quelli che voi nella vita di tutti i giorni odiate. Ho letto Jean Genet. E questa cosa degli scrittori che cantano la gloria dei criminali non la dico io, ma la dice Genet, che ha passato più di me una vita di strada, di galera e di emarginazione. Genet era considerato un frocio per i francesi e per questo all'amico mio l'hanno messo più volte in galera. Comunque dicevo che ci vuole una bella faccia tosta di un attore per rappresentare in scena un assassino quando ci sono tutti i giorni persone che vengono veramente ammazzate dai criminali. Peccato però che il criminale vero deve vedersela con la propria azione. Per quell'attimo che dura la scena, prima della galera, il criminale, se riesce a farla franca, ha bisogno di un talento maggiore di quello dello scrittore e dell'attore. Ma che ne sanno quegli scrittori che non hanno mai rubato una caramella? Ma voi li amate, ma io lo so perché. Perché accompagneranno le vostre vite sempre come divertimenti, come distrazioni. E nel frattempo voi continuerete a disprezzare i modelli originali con cui si ispirano. I modelli originali hanno pianto davvero, hanno sanguinato, hanno sofferto e non hanno avuto nessuna gloria. Voi tollerate l'eroe quando è addomesticato. E lo ignorate nella sua vera natura di carne, ignorate che pianga e soffra come voi. E preferite le imitazioni. Chuchat, Ladri di biciclette, Pinocchio, Lucignolo, Gomorra, belle le figure letterarie, sì. Ma nessuno di voi ci ha mai fatto caso che queste figure così affascinanti sono le stesse che nella vita di tutti i giorni disobbediscono alle autorità, scippano le vecchiette, rapinano la gente, spacciano la droga, ammazzano le persone. La verità è che gli originali non ve li potete permettere. I falsi sì. Lo so che il mio umore vi sta appesantendo. Voi siete certi che salverete quei guaglioni. Fortunatamente al fascino dei criminali, dei fieri assassini che loro ammirano, non potrete mai opporre altro che guardie ridicole. Niente sostituirà la seduzione dei fuorilegge. L'atto criminale ha più importanza di qualunque altro, perché con esso ci si oppone ad una forza enorme, morale e fisica. Ma io lo so che il mio umore vi appare pesante. Questa non serve. Quelli sono degli aggeggi inservibili. Servono solo a creare odio. Io ho bisogno di amore. Ho bisogno di questo. Ho bisogno di letteratura. Ho bisogno di teatro. Ho bisogno di cinema. Io quando in galera ho messo il piede sul palcoscenico, ho capito che mi potevo perdonare, che avevo una via d'uscita. E allora, prima di andare via, permettetemi di salutare tutti i ragazzi che sono nelle nostre galere. Non mi faccio illusione, non vi preoccupate, io parlo nel vuoto, parlo nel buio. Ma anche per una soddisfazione personale, permettetevi per l'ultima volta di insultare coloro che insultano. Lasciami dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano sul viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire, pianterai un lino convinto ancora di poterlo finire. Grazie. Il giovane criminale Jené Sassà, scritto, diretto e interpretato da Salvatore Striano. Siamo con l'autore interprete Salvatore Striano, che sarà a Roma al Teatro Off Off dall'8 al 13 gennaio con il suo spettacolo Il giovane criminale. Salvatore, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Lo descriviamo questo spettacolo? È difficile descriverlo, è una storia vissuta sulla mia pelle, mescolata a dei fatti che raccontava Jené, però da me rivisitati. Mi sono un po' appropriato di alcune sue parole molto forti che Jené aveva scritto in carte blanche nel giovane criminale suo di Jené. Abbiamo messo insieme dei pezzi di Teste Matte, che è il mio primo libro, e abbiamo tirato fuori un monologo teatrale. Dico abbiamo tirato fuori perché mi ha aiutato Marta Paci, che è l'aiuto regia a questo monologo. È una cosa molto potente, io non lo posso dire perché ne sono protagonista, regista e autore, però è un modo per provocare il pubblico e invitarlo a riflettere, e vediamo che ne esce. Però i temi sono la criminalità, la vita carceraria, e quindi sono temi che molte volte la gente si gira dall'altra parte, e io voglio che invece ci guardiamo negli occhi e gli voglio dire delle cose al pubblico, ecco. Allora, facciamo un passo indietro, partiamo dagli inizi, Sassà. Tu sei anche scrittore, sei anche attore di cinema, e però qui ci occupiamo di teatro. E allora, Partiamo dagli inizi. Io nasco come attore di teatro, veramente, perché mi sono formato in carcere. In carcere all'epoca non avevo possibilità né di fare il cinema né la TV, e quindi i miei primi passi li ho mossi sulle tavole del palcoscenico nel carcere di Re Bibbia con Fabio Cavalli. Quindi, se poi dobbiamo partire dagli inizi, io sono formato come attore teatrale, poi dopo sono stato sequestrato dal cinema e va bene così. Ecco, ci racconti come è andata all'inizio? All'inizio è andata semplicemente che io ero nel chiuso di una cella e stavo raschiando il fondo dopo averlo toccato, perché tutti quanti tocchiamo il fondo ma poi la gente si rialza. Io invece non avevo più le forze per rialzarmi, perché le disgrazie si accavallavano una dietro l'altra, e avevo perso mio padre, poi successivamente avevo perso mia madre, non sono mi trovavo detenuto, e quindi ero stato vittima degli psicofarmaci e dell'alcol per cercare di non stare lucido e pensare a tutte le disgrazie che mi stavano accadendo. Poi fortunatamente un giorno è venuto un ergastolano, Cosimo Rega, con un copione in mano, e mi ha chiesto se io avessi voglia di partecipare a un laboratorio teatrale. Mi ha detto che dovevo fare la donna, quindi ho mandato a fanculo, scusate il termine, perché ci manca solo che divento donna in galera, in basta tutti quelli che ho fatto. Poi mi ha lasciato il copione in cella, durante la notte ci ho portato l'occhio su, ma così, perché ce l'avevo là, che era una frase di Donna Maria in Napoli Milionaria, che diceva: io ho fatto quello che hanno fatto tutti quanti gli altri, mi sono semplicemente difesa, rivolgendosi al marito che tornava dalla guerra, che vedeva che aveva trovato una famiglia ormai persa, disastrata, una figlia prostituta, un figlio ladro e una madre che non curava l'affetto di quei figli. Quella cosa mi ha fatto pensare a me, che anche io mi trovavo in galera e non ero potuto essere vicino ai miei genitori morenti, perché mi dovevo difendere dalla camorra che mi minacciava, che mi estorsionava e che mi perseguitava. E quindi quella frase, anche io ho fatto quello che hanno fatto tutti quanti gli altri, mi ha fatto venire voglia di scendere al passeggio e di dire a Cosimo: voglio fare questo spettacolo teatrale. Mm-hmm. E da lì è iniziata la mia carriera artistica. Quando ho messo i piedi sul palcoscenico, ho visto che la gente mi applaudiva, si emozionava, e da lì ho capito che io non avevo una vita segnata, ma ero semplicemente uno scarabocchio che andava ridisegnato per bene. E il teatro mi ha dato tanto, mi ha dato un nuovo linguaggio, dei nuovi atteggiamenti, e una nuova strada da percorrere, che non è fatta di legalità e di crimine, ma è fatta di principi, di valori sani e di benessere, soprattutto per me e di conseguenza per gli altri che mi vivono. E quindi da lì è iniziato tutto. Ecco, tornando allo spettacolo, Sasà, che lettura hai dato del suo passato, del suo percorso umano? Guarda, è semplicemente un racconto di episodi che mi sono successi, e ogni volta che racconto un episodio invito il pubblico a decidere chi ha sbagliato, se ho sbagliato io o se ha sbagliato la persona che mi era di fronte. Dentro ci sono poliziotti, carabinieri, finanzia, agenti di polizia penitenziaria, boss della camorra, sorveglianti di centri di accoglienza, di carceri minorili. Si parte dai 10 anni e si arriva ai tempi nostri, quindi fino all'età maggiore. È molto forte, perché è tutta roba vissuta, non voglio svelare niente allo spettatore, perché vorrei che si affacciasse all'Off-Off Theater in Via Giulia a venire a vedere questo monologo, che è molto potente. Però sono fatti di vita vissuta, e ha una doppia ragione di esistere questo spettacolo: in primis perché io faccio questo e sono un artista, e in secondo luogo per far conoscere a chi ignora questa realtà carceraria, che molto spesso ci troviamo nelle palestre del crimine e non in centri rieducativi e riabilitativi. E anche il mondo di fuori, molte volte la gente non sa che tante persone si trovano a portare avanti una vita criminale non per scelta, ma per delle conseguenze volute da altri. Quindi i temi sono forti. Sì. Devo cercare soltanto di essere bravo io a trasmetterli al pubblico. E invece, rispetto al testo di Genet, cosa avevi apprezzato di quel lavoro? Guarda, le parole sue tutte, perché lui è crudo, è nudo, è potente e non assolve niente e nessuno e ci va veramente duro, ci va dentro forte. Io ho dovuto rivisitare delle cose senza bussarlo, se mi lasci passare il Sì. termine. Ho trovato delle cose da lui dette che sembravano quasi la conclusione delle cose che io vivevo. Cioè, Casà ha vissuto questo, Genè pensa questo. Casà ha fatto questo, Genè vi dice questo. Sembriamo due amici, due fratelli, sembriamo due persone che appartenevamo allo stesso mondo, alla stessa banda, che poi è un po' così. Al nostro amico l'hanno portato carcerato soltanto perché era omosessuale. E oggi per fortuna non gira in galera, però ci sono ancora degli amici nostri che per le loro tendenze sessuali vengono ancora ghettizzati o insultati o minacciati, tante volte anche arrestati per strada. E quindi lui era un criminale per sette persone, anche per quello, poi era un ladro, era un bandito, era tante cose. E questo l'ha portato a conoscere il mondo di dentro e lui lì dentro ci ha visto una ferocia proprio. Lui racconta della passione dei giovani criminali per il male, racconta del fallimento di chi li deve rieducare, ma invece li imbastardisce ancora di più. Io questo lo sostengo da quando sono uscito dal carcere, che molte volte un carcere non funzionale non è altro che una palestra del crimine e quindi bisogna fare attenzione quando si buttano le persone dentro. Molte volte una persona che commette un reato si trova in galera senza essere un delinquente, ma solo perché ha fatto un errore e invece poi dopo trascorre un anno all'interno delle prigioni e lì sì che diventi veramente un criminale, un delinquente, perché ti prendi una specializzazione, perché si è abbandonato al tuo destino e ti lasciano lì con delle storie assurde insieme ad altre storie assurde. Cioè, tu porti la tua storia assurda, in cambio gli altri detenuti ti danno le loro storie e quindi tu ti specializzi. È molto forte come tematica. È uno spettacolo che provoca, veramente provoca il pubblico in continuazione, ma proprio per farlo riflettere, per non farlo girare dall'altra parte. Io dico sempre agli insegnanti: portate gli studenti nelle carceri. Prima che raggiungano la maggiore età, fategli conoscere quel mondo, perché poi una volta che l'hanno conosciuto da visitatori, da spettatori, lo evitano, non vogliono essere più protagonisti di quel luogo. Sarà in chiusura, dove ti vedremo impegnato in quest'anno? Mi vedrete su Mediaset, abbiamo girato Sabrina Ferilli, la serie A pure strappato, tratto da una storia vera. Mi vedrete con Giorgia Tirabassi, Il Grande Salto, la sua prima regia. Mi vedrete a teatro con il mio spettacolo, che farò una tournée, inizierò da Roma, poi girerò a Sondrio, poi girerò a Milano, poi ho disdetto Napoli perché non si sono comportati bene, ma troverò una tagliata su Napoli. E quindi si va avanti così. La sala c'è, è attivo, è pieno di energie e poi tante visite nelle carceri e nelle scuole perché non mi dimentico da dove vengo e qual è la mia missione, quella di andare a dire agli altri che se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti, perché io ero un caso disperato e sono uscito a 33 anni dal carcere con un sacco di precedenti penali e nessuno avrebbe scommesso un euro, eppure ad oggi ho scritto 3 libri, ho partecipato a 15 film, tra cui alcuni abbiamo vinto i premi in tutto il mondo, scrivo spettacoli teatrali, li dirigo. E quindi veramente, se ce l'ha fatta questo scappato di casa di Sasà Striano, ce la potete fare tutti, però vi dovete impegnare, dovete sposare le cose che fate, perché se no non arriva niente. E questo è. Su internet dove ti si può seguire? La mia pagina, Salvatore Striano Fan Club, o Salvatore Striano, c'è anche la pagina privata, e mi trovate là. Salvatore Striano Fan Club, trovate tutte le informazioni dei miei progetti e delle cose che porto avanti. Allora ricordiamo Il giovane criminale, scritto, diretto e interpretato da Salvatore Striano, dall'8 al 13 gennaio a Roma, Teatro Off-Off. Sasà, un abbraccio, in bocca al lupo e ci vediamo lì. Abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori, vi voglio bene, a presto, ciao ciao. Ciao.

Sì, c'è il sito internet che è www.ulderico-pesce.it, c'è la pagina ufficiale di Ulderico Pesce, Facebook. Anzi, mi appello a tutti voi, poiché pensate, siamo 10.000 km quadrati, la Campania è 13.000 km quadrati, è poco più grande di noi, però la Campania fa 6 milioni e mezzo di abitanti e noi in Basilicata 500.000, cioè San Lorenzo, va, per capirci, in un'estensione però di 10.000 km quadrati. Siamo 50 persone a chilometro quadrato, in alcune aree della Basilicata sono 9 persone a chilometro quadrato, quindi la nostra difficoltà è metterci assieme, uscire dalle logiche clientelari dell'acquisto e nel contempo far conoscere i nostri problemi per risolverli. E allora mi appello a chi di voi oggi sta ascoltando e al di là del teatro, che per me conta solo se è utile, perché se non è utile arte fino a se stessa è finita per l'epoca. Se è utile, e allora mi appello a tutti voi a promuoverlo se volete, non è un problema economico, è un problema di rispetto della mia terra e della gente con cui sono cresciuto. Quindi chi di voi vuole mi può trovare il mio telefono sul sito, su Facebook o quant'altro, chiamarmi e voglio promuovere questo lavoro in lungo e in largo, anche a rimborso spesa, proprio per la finalità di far conoscere attraverso il teatro una verità brutale che condanna centinaia e migliaia di persone. E allora ricordiamo lo spettacolo Petrolio, storie dalla Lucania Saudita, a Roma al Teatro India dal 9 al 13 gennaio. Un saluto e un ringraziamento a Ulderico Pesce. Ulderico, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Ok, un bacio grande. Ciao. Permettimi, poiché ho vissuto a San Lorenzo per molti anni e la radio è ancora via dei Rossi, però ho vissuto in via di Costa Lapigliana al 6 e non posso non salutare tutti, il barbiere Pino, gli amici di San Lorenzo che in questo momento sono alla scuola, cioè i negozi dove andavo a fare la spesa. Un abbraccio forte, ciao. Ciao Derio. Ciao. Siamo con l'autore e attore Giovan Bartolo Botta per presentare Sgombro, varietà tragicomico numero 23, a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 11 gennaio 2019. Ben trovato. Un saluto a tutti, belli brutti, e buon 1987 a tutti voi. Allora, anche a te chiedo di descriverci la formula Sgombro. La formula Sgombro è molto semplice, è una formula particolare, praticamente molto veloce. Abbiamo 5 minuti a testa, siamo una serie di artisti che cerchiamo di esprimerci con dei numeri molto variegati, si va da numeri per lo più completamente comici, ma anche ibridi, poesia, numeri musicali. Ma c'è una particolarità, caro Federico, c'è una particolarità. Praticamente ogni sera non siamo noi ad esibirci, ma sono vecchi comici del passato che tramite una seduta di tavola Ouija entrano nel nostro corpo e recitano al posto nostro. Siete posseduti? Sì, sì, esatto. È un sistema che oscilla tra il rito, la serata di cabaret, di arte varia e di tavola Ouija, non so, una serata medianica, diciamo. Tutto questo solamente con un prezzo facoltativo di 5 euro di sottoscrizione, proprio per venire incontro al reddito di cittadinanza. La sede è sempre stata il Nuovo Cinema Palazzo, tranne la parentesi estiva, giusto? Esatto, è sempre stato il Nuovo Cinema Palazzo, che è praticamente una sorta di seconda casa dove avvengono molte cose interessanti e belle, mentre invece come parentesi estiva, devo dire dove siamo stati come parentesi estiva, il direttivo artistico ha scelto, è stato scegliere tra due posti, uno era l'Acqua Flanzi Riccione e l'altro era il Monk, diciamo per questioni di nessun tipo di nostalgia Zamataura abbiamo scelto il Monk. C'è anche in genere un presentatore che solitamente è Ivan Talarico. Esattamente, solitamente Ivan, anche se mi sembra dall'ultima riunione, se ricordo bene, quest'anno si è deciso ogni tanto che ci si potrebbe anche tornare nella presentazione, però di solito il presentatore che gestisce come se fosse un po' l'Alex Ferguson della situazione è sempre Ivan. Sì. Questa edizione quanti sarete e chi sarete? Questa edizione qua siamo, beh, lo zoccolo duro è sempre rimasto lo stesso, perché così composto c'è uno zoccolo duro dove c'è Davide Grillo, Daniele Parisi, Matta D'Arrigo, Gioia Salvatori, Claudio Morici, Inanno Egidio, no? Che sono Francesco Diso Perzero Picciotti, Marco Cicotti, Simone Pedisano, cioè Cecilia D'Amico. E poi dopo ci sono io, la mia dissociazione somatica, e poi dopo ci sono sempre degli ospiti che tornano in modo da avere sempre la serata bella variegata. Comunque c'è lo zoccolo duro sempre di tennis, ci siamo sempre. Qui tra i meno consueti leggo Daniele Fabbri e tu, la band Troppo Duo, e Tiziano Scrocca e Livia Ferri, giusto? Sì, è vero. Daniele Fabbri è stato già parecchie volte ospite da okay. noi a Sgombro. Sì. È un ospite sempre, sei quegli ospiti che gli si fa sempre trovare, come dire, il suo piatto preferito, no? Come quando vai al bar che dice il solito, se si sa già quello che prende, che consuma, che glielo si fa sempre trovare pronto. Tu sei uno dei più assidui anche dagli inizi, e cos'è che apprezzi maggiormente di questo spettacolo? La cosa che mi piace di più, sì, ci sono dall'inizio con tutto il gruppo dello Zoccolo Duro, la cosa che apprezzo di più intanto è come il gruppo pian piano, dopo un po' di tempo, si sta sempre più amalgamando e sta diventando qualcosa di prettamente analogico, no? Non cosa che si ritrova sui social, ma proprio ci si ritrova in carne ed ossa a bere l'amaro e a discutere di come sono andate le serate, a discutere proprio anche di questo che è un mestiere che consideriamo un po' come se fosse una sorta di San Farmaco salvavita, no? E poi la cosa che apprezzo è un po' questa serata che abbiamo mantenuto questo stile un po' narcoide, che ci diamo una struttura, ma siamo anche molto aperti alla follia e alla possibilità di sperimentare. La tua è prettamente un'esibizione poetica. Sì, io porto le poesie, diciamo che per lo più porto quelle di tipo più del repertorio più brillante, come ovviamente sono sempre poi poesia performativa, quindi sono performance molto fisiche, devo assumere diciamo anche tutto un certo tipo di farmacologia, di farmacopea allopatica, sì, fitoterapica, sì, omeopatica, per arrivare pronto a portare a casa la serata, no? 5 minuti molto fisici, io devo necessariamente sudare, altrimenti poi dopo, come dico sempre, se io non sudo dopo la birra che bevo dopo sa di piscio, non mi dà soddisfazione. Ecco, vivo anche un po' la performance con un certo senso di colpa, come se fossi la Binetti col silicio, ecco, sono un po' abituato a quella vecchia scuola, ai vecchi quadri di partito di senso di colpa. Ultimamente sapevo anche che stavate registrando in video tutte le performance. Esatto, quest'anno qualcosa di video sporadicamente l'abbiamo registrato anche gli anni scorsi, però quest'anno abbiamo deciso, a causa di Urano, della posizione di Urano che ha avuto, che ha assunto il 12 maggio del 2018, che è diventata retrograda in Ariete, è divenuta a tutti noi una certa malinconia, no? La paura che il mondo finisca, cosa che tra l'altro da un po' hanno detto, perché ci hanno dato solo più due generazioni, poi il mondo finirà per via della plastica, queste cose qua. E allora ci è venuta voglia di lasciare un segno di noi, che non sia solo audio ma anche video, ma per combattere questa malinconia causata da Urano, non per nulla, non per voyeurismo, diciamo. Allora, in chiusura ci lasci anche i tuoi riferimenti web per saperne di più sulla tua attività? Assolutamente sì, se posso, siccome la pubblicità è l'anima del commercio, e noi siccome non abbiamo diritto al reddito di cittadinanza, anticipo un po' la serata che faremo tra un po'. Io sto girando anche con l'Otello, lo spettacolo Otello non si sa che fa, e riapriamo l'anno con la prima serata che sarà il GSO Spartaco il 18 di gennaio di questo mese, 18, pochi giorni prima del mio compleanno, ancora sotto il segno del Capricorno, 18 gennaio Spartaco con Otello non si sa che fa. Magari avremo anche modo di riparlarne, chissà. sì, assolutamente, della compagnia Produzioni Nostrane, in scena ci sono io e la mia collega Claudia Salvatore. che saluto e che le consiglio anche un certo tipo di astrologia per quest'anno, per vedere come andranno le repliche e le provisioni future. Bene. Questo lo consiglio comunque a tutti, seguite l'astrologia a dosi omeopatiche. E allora ricordiamo anche Sgombro, varietà tragicomico numero 23 a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 11 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Giovan Bartolo Botta e magari ci si vede lì, caro. Assolutamente, ci vediamo a Sgombro l'11. Seguite anche tutto il resto delle puntate sulla pagina Facebook e mi raccomando che sia un anno con un totale controllo laico, ovviamente con un totale controllo dei sintomi psicofisici. T'abbraccio, ciao. Grazie Fede, God save the Queen a tutti. Ciao. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana teatrale romana. E Simone, ben trovato. Ela, buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Ciao, auguri. Auguri, beh, chiaramente ci aspetta un anno importante, soprattutto Roma, perché è l'anno in cui ci ha lasciato il presidente, il direttore del Teatro di Roma, e quindi attualmente sono in corso delle consultazioni, delle valutazioni da parte del consiglio di amministrazione per capire a chi affidare la guida del teatro nazionale di questa città. Insomma, quindi è molto importante quello che c'è, il periodo che ci aspetta. Quindi quest'anno nuovo deve portare sicuramente delle buone notizie, le aspettiamo. E per il teatro questa settimana che succede? Allora, questa settimana torniamo a dirci un po' di cose e cominciamo con qualcosa che è rimasto un po' da Natale, perché al Teatro Quirino sono leggermente indietro in qualche modo, perché viene presentato dall'8 gennaio e Christmas Carol, che della battuta effettivamente è un testo che non ha bisogno del Natale per essere presentato, adattamento dal celebre romanzo di Charles Dickens, con le musiche di Alan Menken. È un musical, il Christmas Carol, presentato dalla Compagnia dell'Alba, con in scena Roberto Ciufoli e regia, le coreografie di Fabrizio Angelini. Sarà in scena appunto dall'8 gennaio al Teatro Quirino fino al 13 di gennaio. Questo per quanto riguarda il Quirino. Ti mando anche al Salone Umberto, dove la nostra comica Francesca Reggiani presenta Doc, Donne d'origine controllata, e dall'8 gennaio appunto anche lei sarà in scena al Sala Umberto per questa settimana fino al 13, un nuovo show, una sorta di one man show al femminile, ecco, non one woman show ma one man show al femminile. Così lo presenta Francesca Reggiani, un mix di comicità e di ironia, insomma, che più o meno conosciamo anche come personaggio televisivo, un po' della TV che ci è sempre piaciuta, quella insomma, della satira televisiva, che è tornata poi di recente, tra l'altro, con la TV delle ragazze, con Serena Dandini sulla Rai, insomma, che ha avuto un discreto successo. Poi ti porto anche al Teatro Ambra Iovinelli, perché da 9, quindi da domani, al Teatro Ambra Iovinelli fino al 27 ci sarà Bella Figura, che è l'ultima opera della scrittrice francese Yasmina Reza, che è autrice insomma di commedie di discreto livello, come Arto, Dio della Carteficina, insomma l'abbiamo parlato spesso. È un'opera questa di dialoghi molto acuti, di umorismo, una sorta di Bodille sul tema dell'adulterio, e sarà diretto da Roberto Andò, con in scena Paolo Calabresi, Anna Foglietta, Anna Ferzetti e Davide Sebasti, e con Simona Marchini. Effettivamente non avevo visto la presenza di Simona Marchini. Roberto Andò, che è soprattutto regista cinematografico. Sì, esattamente, un regista che insomma spesso però abbiamo visto occuparsi di teatro, se non sbaglio, sì, ho visto anche il suo Bernard qualche anno fa al Teatro Biondo di Palermo con Roberto Erlisca, insomma è un regista che ama spesso confrontarsi con il teatro. Poi poi ancora, questa settimana andremo anche al Teatro Palladium, perché dall'11 al 13 gennaio Amore, Ingenuità, Poesia, Sogno saranno i sillabari. Ecco, sillabari è il tema, sillabari è il titolo di questo straordinario libro di Goffredo Parizia, che viene adattato per la scena con la drammaturgia di Roberto Traverso e Lorenzo Loriz, che quest'ultimo si occupa anche della regia. Tra gli attori in scena ci sarà Edoardo Siravo e sarà in scena appunto al Teatro Palladium 11, 12 e 13 gennaio. La produzione è quella del Teatro Autop di cui Lorenzo Loriz fa parte, Teatro Autop di Milano. Anche qualcosa dedicato ai più piccoli, domenica 13 andremo al Teatro Centrale Premeste per la regia del testo e l'interpretazione di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa, Tu fa il mare e le nuvole, per Ruota Libera Teatro, appunto alle 16.30 di domenica 13 gennaio al Teatro Centrale Premeste. Qualcos'altro che posso dirti sicuramente, Federico, hai già parlato con Carrozzeria Orfeo per questo Couscous Clan, più che altro abbiamo sentito nell'intervista. Couscous Clan, che è uno degli appuntamenti della personale di Carrozzeria Orfeo al Teatro Eliseo fino al 13 gennaio per ammirare questo lavoro, l'ultimo lavoro tra l'altro della compagnia lombarda, che sta avendo un grandissimo successo di pubblico in questi anni e attorno al tema della privatizzazione dell'acqua, questa drammaturgia è piuttosto particolare, una situazione particolare. Sono tre fratelli che vivono tutti insieme, tutti insieme in un parcheggio abbandonato e degradato attorno ad un cimitero periferico. Questa è un po' una situazione limite in cui si muove la drammaturgia di Carrozzeria Orfeo con la questa scrittura di Gabriele De Luca, Couscous Clan, fino al 13 gennaio al Teatro Piccolo Eliseo. Teatro che però ospita fino al 20 gennaio ancora Miseria e Nobiltà di Edoardo Scarpetta con Lello Arena e la regia di Luciano Melchionna. Si tratta di un lavoro che ormai conosciamo, si tratta di queste maschere ombre potenti di cui parla Scarpetta. Miseria e Nobiltà è una sorta di ecosistema, cioè un'architettura senza uno solo degli elementi va a crollare tutta. Una metafora, una commedia dell'arte e l'attualità più tragicomica. I personaggi non hanno un approfondimento psicologico, ma vivono un po' scatenati da istinti e da desideri umani attraverso un affresco satirico, insomma è proprio l'umanità stessa che viene raffigurata. Sarà in scena appunto fino al 20 gennaio ancora al Teatro Eliseo, Sala Grande. Ma al Teatro Eliseo, in realtà, fino al 20 gennaio c'è un altro spettacolo anche, che è il Diario di una casalinga disperata, con la regia di Ferdinando Ceriani, che porta questa sorta di Bridget Jones di oggi a teatro. Sarà nel foyer del Teatro Eliseo, con in scena Mauro Santopietro e Carla Ferraro. Racconta insomma le mogli che cercano di assomigliare alle fotografie dei rotocalchi con le donne, le fotografie dei rotocalchi, delle riviste insomma patinate, quindi delle donne di carta, e insomma tutti questi personaggi che cercano di assomigliare al mondo che non saranno mai. È una storia che appunto è tratta da un romanzo che è uscito nel 1900, romanzo omonimo, che è uscito nel 1967 negli Stati Uniti, ed è una voce aggressiva e profonda, ironica, che insomma ha dato vita a tutto un mondo che è quello delle casalinghe disperate di ogni tempo. Quindi fino al 20 gennaio, Diario di una casalinga disperata, al Teatro Eliseo, nel foyer della seconda balconata, precisamente. Ultimissimo appuntamento, ti costo al Teatro di Roma, hai già parlato con Federico Pesce per ciò che riguarda un po' uno dei debutti di questa settimana, ossia il petrolio, le storie della Lucania Saudita, che fino al 13 gennaio dal 9 saranno al Teatro India, ed è un lavoro, quello di Enrico Pesce, che è un racconto denuncia che viene fuori da quello della Lucania, appunto, il più grande giacimento petrolifero del continente, con un grande indice di mortalità e danni ambientali irreversibili. Questo, che era stato composto per il ritratto di una nazione, adesso è diventato uno spettacolo più esteso, racconta appunto la Basilicata bella e pericolosa, dei suoi boschi e anche dei suoi giacimenti di petrolio, quello precisamente tra Vigiano e Corleto Perticara. Questo andremo a vederlo dal 9 al 13 gennaio al Teatro India, mentre invece nella Sala Grande, appunto, del Teatro Stabile, del Teatro Nazionale, questa è la settimana, questa sera, del debutto del Don Giovanni di Molière, un classico della letteratura europea, al debutto a Roma per la regia e la riscrittura di Valerio Binasco. È una produzione del Teatro Stabile Nazionale di Torino, che indaga sulla figura di questo leggendario seduttore criminale che è in rivolta contro Dio, che ricerca la propria libertà. Indaghiamo noi oggi, insomma, questo mito del Don Giovanni, però alla luce poi dell'uomo attuale che indaga appunto la libertà, l'ateismo, in qualche modo la blasfemia. E quindi dall'8 al 20 gennaio andremo a vedere questo lavoro firmato da Valerio Binasco, con molti attori in scena al Teatro Argentina di Roma, che appunto sta aspettando un direttore, ma nel frattempo ci dedichiamo a Molière. Simone, un abbraccio e a risentirci la settimana prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.